Benvenuti. Allora, oggi proviamo a fare una cosa un po' diversa. Immaginiamo di trovarci lì a Catania. E di dover ricostruire un'intera città da zero, dopo un terremoto, ma uno di quelli devastanti. Esatto. Quale sarebbe la prima strada, quella più importante da progettare? A Catania, nel Settecento, la risposta fu Via dei Crociferi. Sì? E questa è la domanda centrale che emerge dalle fonti. Proprio così, perché la via più monumentale della città rinata è un concentrato quasi totale di chiese e conventi. Quasi nessuna casa privata. Cerchiamo di capirlo. È una domanda chiave, perché Via dei Crociferi, oggi patrimonio UNESCO, non è solo una meraviglia architettonica, è un vero e proprio manifesto. Un manifesto? Certo, un'affermazione di identità e di potere scolpita nella pietra lavica. Il tutto in appena 400 metri. Allora, proviamo a percorrerla insieme, quasi come se fossimo un audioguida per chi si trova lì in questo momento. Si parte da Piazza San Francesco d'Assisi, giusto? Sotto l'Arco di San Benedetto. Esatto. Un arco imponente. E a prima vista unisce due conventi. Ma non c'era il rischio che un arco così massiccio, che collega due proprietà private, finisse per soffocare la strada pubblica? Questa è un'ottima osservazione. E invece fa esattamente il contrario. Ah sì? Sì, perché nel barocco la distinzione tra pubblico e privato è molto più fluida. L'arco non chiude, incornicia. È come un sipario teatrale. Un sipario? Mi piace come idea. Appunto. Attraversandolo si entra in una vera e propria scenografia sacra. Era un gesto, diciamo, di possesso visivo dello spazio da parte delle monache benedettine. Quindi la via diventava quasi un'estensione del loro mondo? Proprio così. Ok, varcato il sipario, subito ci si trova davanti a due colossi, la chiesa di San Francesco Borgia e il collegio dei Gesuiti. L'atmosfera qui però cambia, diventa più... austera. Severa quasi. Beh, certo, quella era la roccaforte dei Gesuiti. Un ordine potente, intellettuale. La loro architettura non è solo arte, è una dichiarazione di potere. Di rigore. Meno fantasiosa, quindi. Meno fantasiosa, più solida. Più imponente. La via, quindi, non ha una sola anima. Racconta le diverse anime e anche le gerarchie della Chiesa del Settecento. E proprio di fronte alla potenza dei Gesuiti c'è un edificio che sembra quasi una risposta gentile. La Chiesa di San Giuliano. Le fonti la descrivono come uno degli esempi più riusciti del barocco catanese. Assolutamente. Attribuita a Giovan Battista Vaccarini. E qui si vede il genio all'opera. La facciata, vero? Non è piatta. Esatto. Bisogna notare la facciata. È convessa. Si curva verso l'esterno. E non è un semplice vezzo stilistico, eh? C'è una ragione pratica. C'è una ragione scenografica. In una via così stretta, una facciata piatta sarebbe risultata opprimente. Vaccarini usa la curva per creare un'illusione di spazio, per accogliere chi cammina. Dà un ritmo quasi musicale alla pietra. È un trucco pensato per il pedone. Geniale. E poi c'è quel contrasto cromatico unico. Sì, a differenza del barocco romano, molto più monumentale, qui Vaccarini fa una cosa tipicamente catanese. Usa la pietra lavica scura in contrasto con l'intonaco chiaro. Il famoso chiaroscuro architettonico. Appunto. E questo non solo alleggerisce la struttura, ma è un marchio di fabbrica che lega tutti questi edifici in un dialogo visivo unico. Una cronaca dell'epoca la definì una perla musicale incastonata nella pietra lavica. Cattura l'idea perfettamente. Un'architettura che vibra. Sì, non è statica. Proseguendo, superiamo la chiesa di San Camillo, che apparteneva ai padri Crociferi, da cui la via prende il nome. E il percorso finisce sulla maestosa Villa Cerami. Sì. E qui c'è un dettaglio che mi ha colpito. Oggi Villa Cerami è la sede della Facoltà di Giurisprudenza. E questo è fondamentale. Dimostra come questo patrimonio non sia una reliquia intoccabile, ma un luogo vivo. Giusto. Gli studenti attraversano ogni giorno questo scenario, integrando il passato nel presente pulsante della città. La storia non è chiusa in un museo, ma è il contesto della vita di tutti i giorni. Quindi, tirando le somme, forse questo breve percorso ci ha già dato la risposta alla nostra domanda iniziale? Credo di sì. Via dei Crociferi è un concentrato di edifici religiosi perché rappresenta la visione di una comunità che, dopo la catastrofe, ha deciso di ricostruire la propria identità ripartendo dalla fede. Dalla cultura, dall'arte. È la materializzazione di un'idea. Non si trattava solo di ricostruire le case, ma di ricostruire un'anima. ogni edificio non è un'entità a sé, ma è una strofa di un unico poema che parla di rinascita, di potere ecclesiastico e, beh, di una visione artistica che ha reso Catania immortale. E questo ci lascia con un'ultima riflessione, un ultimo spunto. Le fonti sottolineano la presenza di chiese, monasteri e, cito, poche abitazioni civili. Sì, è un punto importante. Cosa ci dice delle priorità di una società del Settecento il fatto di dedicare la sua strada più spettacolare quasi interamente a istituzioni che rappresentano il potere spirituale e culturale, invece che, non so, a palazzi nobiliari o ad attività commerciali? È come un'istantanea di un mondo con un ordine di valori davvero molto diverso dal nostro.